fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siamo di nuovo in diretta su Resto Radio Convento, soprattutto siamo di nuovo in diretta con i nostri festeggiati, con i nostri protagonisti di ogni serata qui al Convento di Lonato. E dopo aver chiacchierato con due ragazze, una sposa e una festeggiata per un compleanno, è anche il turno di qualche maschietto. Se i nostri ascoltatori, ecco, che ci stanno seguendo, si chiedessero ma non ci sono maschi nel locale, no, non è assolutamente vero, ci sono assolutamente sì, e sono presenti e conosciamo con grande piacere anche loro. Allora, diamo il benvenuto ad Alberto. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera a te, buonasera. Ovviamente, come dire, accompagnato e supportato anche dai suoi amici. Alberto, da dove vieni? Io vengo da Roncade, ragazzi, sono da Treviso. Treviso, benissimo. E cosa ti porta qui al nostro locale? Beh, direi l'affetto dei miei amici, per cui mi hanno bendato e portato qui, per cui è stata una grossa sorpresa, è stata una bellissima serata. Quindi eri completamente ignaro? Completamente ignaro, ma... Ma bendato per tutto il tempo? Bendato per gran parte del tempo. Ah, ok, perché cos'è Treviso? Chi è che ha guidato di voi? Sono io che ho guidato. Dacci un attimo un'indicazione geografica alla Google Maps. Treviso, Desenzano? No, abbiamo fatto Treviso. Abbiamo fatto Treviso Verona, Verona Centro, un giretto. Ah, ok, Verona, ok. E poi da Verona siamo venuti qui a Lonato. Totale un'ora e mezza, cos'è? Due ore? Un'ora e mezza. Ok, allora, ipotizziamo in questa ora e mezza, io voglio capire cosa ti è passato per la testa. Cioè, a cosa hai pensato in quell'ora e mezza bendato? Beh, mi è percorso un po' tutta la mia esperienza. Che si possa dire, ovviamente, perché chiaramente i tuoi amici ti stanno suggerendo. Beh, quello che ho capito, insomma, che i miei amici mi vogliono gran bene e che mi hanno portato in un posto in cui veramente io possa fare un'esperienza a tutto tondo. Oh, bello, bello. Per la verità, ha dormito. Ha dormito? Ha dormito per te. Bene, bene, l'autista. Eh no, perché io volevo capire... No, no. Ma ti dico la verità, infatti volevo capire l'effetto sorpresa, che effetto, scusate, gioco di parole, ha sui festeggiati. Cioè, io un'ora e mezza bendato senza sapere dove sto andando, un po' di pensieri, domande me le faccio. Volevo capire cosa è entrato invece nella sua testa. Beh, hanno cercato di depistarmi, però il mio senso di orientamento mi ha portato comunque in queste zone, per cui io ho capito che ero qui. Quindi dissentono, quindi dissentono tutti quanti. Dissentono. Dissentono, ma io ero cosciente e ho capito che comunque ero in queste zone. Ok. Me lo immaginavo, però tante volte ho sentito parlare di Desenzano, nessuna volta sono stato qui, per cui è stata una grossa sorpresa. È stata una sorpresa positiva, ho visto un sacco di gente, un sacco di festa. E siamo qui veramente per celebrare questa festa con i miei amici. No, no, infatti io non so più cosa dire, perché sono rimasto folgorato. Bravo, bravo, veramente. Bravo. Intanto complimenti per il senso dell'orientamento, nel senso che... Sì, non sono stato bendato come abbia fatto fare... Esatto, se ci è riuscito, fidiamoci. Oltretutto pensava di essere a Udine. Beh, comunque, diciamo che Udine di Sentano è un tiro di schioppo. Hanno cercato di depistarmi, ma insomma non è che siano dei professionisti, diciamola qui, sai. No, ok. Beh, anche perché diciamo che se fosse stati a Udine, se non ricordo male, avreste trovato un po' di casino, perché c'è la partita, se non... Bravissimo. Quindi sarebbe stato un po'... L'interista qui non c'è nessuno. Anche a Verona. Anche a Verona. Ah, giusto, giusto, Chievo Spal, bravo, bravo. Sì, no, pensavo più a Verona Centro, mentre lo stadio del Chievo è appena fuori. Ok, a proposito di amici che ti vogliono bene, ce li vuoi presentare? Ci vuoi dire chi c'è qui con te stasera? Bene, partendo dalla destra c'è il mio amico Michele, che è l'autista che abbiamo sentito prima. È l'autista fidato che ci porterà anche nel suo caso domani. Spero a casa, se non ci facciamo altre tappe. Sì. Sì, tanto ormai, cioè, nel senso, qualsiasi sorpresa con lui salta, quindi... Esattamente, quindi. Dovunque lo portiate, lui si orienta. Anzi, forse dovreste tenerlo sbendato e si perde sbendato. Potrebbe essere la teoria degli opposti. D'accordo. Poi, proseguendo verso sinistra, c'è Matteo, il nostro calciatore semiprofessionista. Semiprofessionista. Sì. Mi piace, perché lui l'ha celebrato in modo, e lui umilissimo ha detto semiprofessionista. Mi piace l'umiltà di Matteo. D'accordo. Poi c'è Enrico, il nostro artista. Un altro, è una compagnia di autisti praticamente. Questo è un artista. Ah, artista, scusa, ho capito, sì. Autista, infatti. Artista. Anche musicista, bene. Certo. E proseguendo c'è ancora Davide. Chi è Davide? Davide. Ah, ok. Davide è praticamente un ragazzo qui. Che nessuno si identificava. È un professionista, possiamo chiamarlo. Anche lui è professionista. Imprenditore. Lui è professionista nel calcio. Ok. E tu nel lavoro, beh, è importante essere. E tu in cosa sei professionista, ad esempio, Alberto? Nel cazzeggio. Beh, bisogna essere bravo anche in quello, eh. Beh, certo, ci vuole una certa professionalità, un certo savoir-faire, un certo know-how. Insomma, sentilo, com'è internazionale il nostro, beh, certo, il nostro Alberto. Parla potabile, mi piace molto come espressione. Sì. Beh, c'è da distinguersi un po' dalla massa, cioè fare il cazzeggio è una professione seria, per cui cioè, non tutti sono indicati e anche qualificati per questo. Oh, raccontaci un po' quali sono i requisiti del cazzeggiatore tipo, dai, diciamo così. Beh, è quello che cerca di improvvisare. No, non puoi descrivermelo dicendo lui, quello non vale, eh. Beh, ci sono delle interferenze che vengono. Sì, è normale. Quello sarebbe l'esempio tipo, però perfetto. Sì, è troppo facile, ho bisogno di aggettivi, di concretezza. Allora, il vero cazzeggiatore è quello che cerca veramente con passione di cazzeggiare in maniera seria. Cioè quello di passare il tempo improvvisando delle facce, delle espressioni, anche dei ragionamenti, ma che lo fanno sembrare impegnato, sì, giusto? Ma che sembra anche serio, però serio e impegnato. Se lo segui anche dal punto di vista della profondità, sì. Cioè cerchi di seguire il discorso, ma non c'è un filo nel discorso. È il numero uno questo ragazzo. No, tu lo fai parlare, lui va avanti per ore. No, ma è il numero uno, il numero uno davvero. Che lì tedesco, cosa? Cioè, se tu glielo chiedi in francese, tedesco, inglese, lui te lo dice. Proviamo, scegli tu, vai, scegli tu. In tedesco. Beh, scegliamo auf Deutsch. Auf Deutsch, vai. So. Cos'è? Aus de Senzano? So. Viel Spaß. Und auf dich auf dich Spaß so wir können auch mit unserem Kunde und unserem Freund. Cioè io ti interrompo perché vabbè, qualcosa c'è. Viel Spaß, alles zusammen, ok. Bello, bravo. Qualcosa ha preso, eh. No, ha parlato di amici, ha parlato, ha detto siamo qui tutti insieme a Desenzano. No, è vero. L'ho sentito. Alle zusammen vuol dire tutti insieme. Poi ha detto Freunde, Kunde, clienti, giusto, ospiti, tanti ospiti. Quindi qualcosina indovinato. Allora, bravo. Un po' l'ho studiato, non ricordo tanto delle scuole, l'ho studiato. Allora, Alberto, complimenti. Tra l'altro volevo rendervi partecipi che mi ha chiamato pochi secondi fa Carlo Conti, che ha chiesto una tua partecipazione. Cioè, nel senso, vuole che tu conduca un programma sul cazzeggio. Addirittura? Su Rai 1 in prima serata. Beh, ragazzi, diciamo che il cazzeggio è una cosa seria. Perché è rimasto colpito più che dall'argomento, proprio dalla professionalità e dalla serietà con cui hai presentato l'argomento. Beh, i professionisti si riconoscono subito. Cioè, da dire che ci sono tanti debuttanti, tanta gente che cerca di improvvisare, ma che riesce veramente in maniera penosa. Poi ci sono i professionisti che si riconoscono subito. Bravo, cioè, quindi c'è anche il dilettante del cazzeggio, questo è interessante. Ebbene sì, c'è anche il dilettante del cazzeggio. Bravo, mi piace. Allora, Alberto, tra l'altro abbiamo detto tutte le cose del mondo, tranne quella più importante, sono passati più di 5 minuti, cioè che tu ti sposi. Sembrerebbe. Purtroppo sì. Abbiamo parlato di qualunque cosa. Tranne del motivo della tua festa. Qualcuno dice purtroppo, io dico per fortuna. No. Bravo. Allora, giustamente citiamo anche colei che ti accompagnerà a questo punto per tutta la vita. Tanti. E quando ci sarà il lieto evento? Beh, siete tutti invitati il 25 maggio. Occhio a dire queste cose. Occhio a dire queste cose, anche perché hai scelto la serata sbagliata per invitare tutti. Beh, allora, la festa si terrà ad Altanea. Allora, molto vicino a Caorle, si terrà in una chiesa all'aperto, per cui un posto veramente carino, vicino al mare, ci sarà brezza, ci sarà un bel prato. Cioè, scusa, la brezza l'hai chiamata tu? Cioè, nel senso, hai fatto in modo, fa parte del catering, del... L'abbiamo prenotata. Ah, l'hai prenotata, hai prenotato la brezza, bravo, ci sta. Ok. Per cui ci sono ragazze. Speriamo del bel tempo, speriamo sia una giornata bellissima. Beh, sicuramente ho invitato le persone giuste, i miei amici, per cui sarà una festa in ogni caso. Ok, ho paura a farti questa domanda, ma te la faccio. Quale sarà, se ci sarà, il tema del matrimonio? Beh, sarà il fumetto, possiamo dirlo il così. Il fumetto, ok. Avevo paura del cazzeggio, quindi figurati. Cioè, noi siamo i testimoni e non sapevamo nulla, Beh. Beh, ma è giusto svelare anche le cose. Il cazzeggio sarà sicuramente una parte presente durante la festa. Certo. Ma il cazzeggio è anche una maniera di vita. Cioè, è anche un modo di vivere, per cui viviamolo a pieno e viviamolo anche durante questa festa di matrimonio. Bello, bello, mi piace il tuo atteggiamento e proprio il tuo stile nell'affrontare questo argomento. Allora, Alberto, vuoi dire ancora qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Beh, vorrei ringraziare i miei amici per questa festa pazzesca, per cui si prospettava un weekend di pioggia, un weekend triste, un weekend grigio, e invece i miei amici l'hanno trasformato in una festa viva, in una festa piena di sorprese, in una festa piena di vitalità. Boh, bello. Grazie ai miei amici. Bravo. Pazzeschi. Bravo, bravo Alberto, grazie a te e grazie ovviamente a loro per averci regalato questa serata, avertela soprattutto regalata, e in bocca al lupo, tanti auguri per il tuo futuro matrimonio. Grazie ancora, a presto. Ciao, ciao. Grazie, ciao.